Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Da quando abbiamo iniziato a raccontarvi i nostri destini, abbiamo sempre esaltato quelle circostanze in cui è la volontà a determinare gli eventi, gli incontri e i cambiamenti. La storia che vi presentiamo quest'oggi è diversa. I suoi protagonisti hanno contribuito a cambiare gli ultimi 50 anni della storia della musica. Si tratta di persone straordinarie, guidate dalla passione, ma i cui destini si intrecciano solamente grazie all'apparente follia della sorte e alle regole delle probabilità. Dimostrano che ci si può giocare tutto in un attimo, a testa o croce, 50-50, o meglio, 50-50. Qual è la cosa più grossa che hai perso a testa o croce? Non lo so, non saprei dire. Scegli. Per cosa? Scegli e basta. Ma non mi sono giocato a niente. Sì, invece. Te lo stai giocando da quando sei nato, solo che non lo sapevi. Sai che data c'è su questa moneta? No. 1958. Ha viaggiato 22 anni prima di arrivare qui. E adesso è qui. Ed è o testa o croce. E devi dirlo tu, scegli. Senta, devo sapere che cosa posso vincere. Tutto. Come, scusi? Puoi vincere tutto, scegli. Va bene. Testa, allora. Ben fatto. Non la mettere in tasca, amico. Non la mettere in tasca, è il tuo portafortuna. È la scena del lancio della monetina in Non è un paese per vecchi, straordinaria pellicola dei fratelli Coen. Un uomo gioca la propria vita in un incontro casuale con un altro uomo, capace di uccidere senza alcun freno morale. E se fosse invece l'appuntamento di una vita già scritto nella storia? Lo stupido verificarsi di certi fatti può essere letto come disegno del destino. È il fascino delle storie vere, come la nostra, che inizia nel gennaio del 1959, quando un produttore musicale decide di organizzare il primo tour dedicato al rock and roll. È il 2 febbraio 1959, il giorno dell'undicesimo concerto in 11 giorni del Winter Dance Party, il tour musicale più importante della stagione nel Midwest americano. In questo tour de force sono interessate le sale da concerto di tre stati, il Wisconsin, il Minnesota e l'Iowa. Si esibiscono i più gettonati artisti della musica moderna, quelli che fanno impazzire le ragazzine, ma che piacciono anche ai papà e alle mamme. Nei loro concerti il rock and roll è protagonista. Strumenti, bagagli, artisti, tecnici, tutto viene caricato su un vecchio pullman scassato e via per i tre stati più congelati del nord. Sul bus manca il riscaldamento e ogni giorno sono previsti spostamenti da non meno di 500 chilometri. La prima data è Milwaukee, seguono varie cittadine più o meno sperdute nelle sterminate pianure coltivate a mais del nord-ovest. Kenosha, Mankato, Eau Claire, Montevideo, St. Paul, Davenport, Fort Ord, Duluth, Green Bay, Clear Lake. Clear Lake, quest'ultima cittadina stretta nella morsa di un inverno più gelido del solito, con temperature che arrivano a sfiorare i meno 30, ha una sala da concerto particolarmente accogliente. Si chiama Surf Ballroom. Gli artisti sono pronti a esibirsi davanti a un pubblico di provincia composto da giovani ragazzi e ragazze desiderosi di ballare, scatenarsi, trasgredire per una sera a suon di rock and roll. Fuori sono parcheggiate Buick, Ford, Chevrolet, pick-up scassati, macchine di papà. Esattamente come oggi davanti a qualsiasi discoteca. Fender Stratocaster Solid Body, amplificatori a valvole Marshall, microfoni Telefunken. I primi artisti fanno da apripista alla stella della serata. Non ci crederete, ma ha solo 22 anni. Si chiama Buddy Holly. Buddy Holly. Sonny Curtis, cantautore che ha condiviso i primi passi musicali di Buddy, ricorda così quel periodo così eccitante. Già ai tempi della scuola iniziamo a lavorare in giro per nightclub. Poi venivamo chiamati nei parcheggi, nei grandi parcheggi dei grandi magazzini, dove avevano tolto la musica delle radio dagli altoparlanti. E ci esibivamo noi. riuscivamo ogni volta a tirare su un sacco di gente. Appena cominciavamo, la gente arrivava. Elvis Presley ha indicato una nuova via della musica tra rhythm and blues e country. Buddy Holly l'ha imboccata deciso, senza paura di fare qualche deviazione lungo il tragitto. Il risultato è, come in tutti i casi di contaminazione musicale, sorprendente. Holly non è esuberante come il suo idolo, che ha inventato il movimento pelvico che crea scandalo tra i ben pensanti. Ha la faccia del bravo ragazzo. Primo tra i rocker, non si vergogna di portare gli occhiali, anzi ne sceglie un paio dalla montatura vistosa. È gracile, indossa maglioncini da college, insomma, ha tutte le carte in regola per piacere alla ben pensante comunità bianca. Inoltre, canta l'ottimismo della sua generazione, fatto di falsetti, melodie collegiali, niente di drammatico o esageratamente poetico. Canta la realtà degli anni 50. Sta servendo su un piatto d'argento la formula vincente per il decennio successivo. Every way, love's a little stronger, come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, love like yours will surely come my way. Buddy Holly nasce nel 1936 a Lubbock, Texas. Prendete una cartina del Texas, piantate l'indice nel centro-nord. In mezzo a quel nulla cresce Buddy, che a 5 anni vince il suo primo concorso musicale. Anche lui, come Elvis, deve aiutare la famiglia a sbarcare il lunario. Intanto studia il violino, la chitarra. Con il compagno di scuola Bob Montgomery inizia subito a suonare quel misto di country, bebop, che lui chiama Western Bop. La maggior parte del tempo lavoravamo. Dovevamo mettere insieme i soldi. Il papà di Buddy faceva il falegname e noi facevamo gli aiutanti del falegname. Rifacevamo i tetti e robe del genere. Lavoravamo unicamente per raccogliere i soldi per andare in studio a provare. Iniziamo a suonare insieme a scuola. Avevamo 12 anni. Stavamo imparando. Lui suonava il mandolino e il banjo. Suonavamo cose tradizionali, un misto di brani country. A Lubbock, Buddy è già una piccola star. Ha appena 19 anni quando Elvis arriva in città per un concerto. Buddy e Bob sono chiamati a fare da supporter. È il 15 ottobre del 1955 e grazie a Elvis le radio si interessano a loro. Buddy partecipa insieme all'amico Bob a uno show su KDAV. Where you all from? Where's your hometown? Di dove siete? Qual è la vostra città? Lubbock, Texas. Quanto dista da Dallas, giusto per capire? Il Texas è grande, ragazzi. La nostra città natale, Lubbock, è a circa 280 miglia a ovest da Dallas. E volete tornarci? Certo. Si vede che è un posto piacevole. Ma mica tanto. Il clima è abbastanza secco. In quelle esibizioni da supporter, Buddy viene notato da un grosso produttore di musica country, tale Eddie Crandall, il quale, impressionato dal talento di Buddy, lo scrittura per la casa discografica Decca. A produrlo, una delle leggende del country di allora, Owen Bradley. Ma fare il country per Holly è come mettere un paio di scarpe strette. Il lavoro non lo soddisfa e l'apertura mentale dell'incontro con Elvis lo porta a seguire un'altra strada. Nonostante il contratto firmato, Holly lascia. All right, I got something you may never have heard before and you may not even be aware that there is one, but this is the original version, not the one you've heard, the original version of That'll Be the Day, the record reads Buddy Holly. È così che, tornato a casa, ritrova gli amici di sempre e si mette a registrare un po' di buon sano rock and roll. Ne nasce un singolo esplosivo che abbiamo in sottofondo. Ma non può essere firmato da Holly. Lui è ancora sotto contratto con la Decca e non può usare il suo nome. Bisogna inventare un nome per la band per eludere il problema. Viene proposto The Beatles, ma Gli Scarafaggi viene giudicato un nome inadatto per una rock band. Allora il giovane di Lubbock sceglie The Crickets, i grilli. Questo sì che è un nome giusto. È il 1957, l'anno giusto per esplodere nelle classifiche degli Stati Uniti. All'appuntamento col destino di Buddy Holly e con l'altro protagonista della nostra storia mancano ancora 2 anni. Diverse pagine di storia della musica da scrivere e un lancio di monetina per sfidare la sorte. That'll Be the Day è il singolo che stravolge il concetto stesso di rock and roll. Vende milioni di dischi. I Crickets sono il fenomeno del momento. Tutti li ascoltano alla radio. Adesso li vogliono anche vedere. Holly è felice. Ha una band di amici. Le proposte arrivano allettanti. Tra queste, l'invito a uscire dagli States per una serie di concerti. Buddy Holly accetta un contratto che lo porterà a suonare in Australia e poi in Gran Bretagna. La portata storica di questa scelta è scritta negli spartiti delle band della British Invasion, la rivoluzione pop degli anni 60. Ma cosa rappresenta la fine degli anni 50 negli Stati Uniti? La musica è certamente l'espressione di un'energia che anima i giovani, un'energia che è nelle cose. Il 1959 è un anno che può essere rappresentato come una bottiglia di spumante shakerata, spumeggiante. L'anno comincia con la chiusura alla radio di ben 4 soap opera. La televisione sta avendo il sopravvento, ma è anche il sintomo di un'emancipazione femminile che rifiuta lo stereotipo della mogliettina in casa che aspetta il marito. In Gran Bretagna tutto è pronto per il debutto di una regina al femminile, la Minnie Minor. Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Ma un'altra donna sta per debuttare sugli scaffali dei negozi ed è destinata a cambiare il costume e le abitudini di intere generazioni di donne. È Barbie, bella, bionda e muta. Dal punto di vista delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, i rapporti erano tesi, ma non troppo. La guerra fredda era già in atto da ben oltre un decennio e gli americani, nella persona del vicepresidente Richard Nixon, vanno a Mosca in occasione dell'esposizione nazionale americana nel luglio del 1959, dove si terrà il celebre Kitchen Debate tra Nixon e Nikita Khrushchev. Discussione tra i due leader che avviene in un set riempito di elettrodomestici e utensileria varia americana che dovrebbero rappresentare agli occhi dei sovietici i frutti del mercato capitalistico e del boom economico dell'Occidente. Ci sono campi nei quali voi sovietici siete più avanti di noi, ad esempio nel settore dell'esplorazione spaziale, con la vostra tecnologia dei motori, mentre in altri settori, come in quello della televisione a colori, siamo più avanti noi. Non è vero! Non è vero! Non deve avere paura delle idee. È quello che noi diciamo a voi. Non abbiate paura delle idee. Noi non abbiamo nulla da temere. Il tempo della paura delle idee è finito. Buddy Holly ha appena pubblicato un nuovo singolo, Peggy Sue. Lo ha intitolato così in onore della fidanzata del batterista della sua band. È un rock and roll che introduce l'universo femminile nella musica rock. Dopo Johnny B. Goode, adesso c'è anche una donna, Peggy Sue, che agita i sonni delle giovani generazioni. Intanto qualcuno in Inghilterra ha fatto tesoro di quel brano, benché elementare, così sincopato e potente. È John Lennon. Peggy Sue, Peggy Sue. A Destini Incrociati raccontiamo l'incontro tra due giovani musicisti rock in tour tra teatri e piccole città del Midwest americano. Il primo è Buddy Holly, simpatico chialuto alfiere del rock and roll. L'altro lo conosceremo presto. Entrambi si trovano al centro dell'universo alla fine degli anni 50. Buddy Holly suona al pari del suo mito Elvis una musica che potrebbe tranquillamente provenire dalle chitarre di una band nera. I suoi successi passano alla radio. La televisione non è ancora in tutte le case. Molti in quel periodo pensano erroneamente che Buddy sia un black man e questo dubbio gli permette di essere l'unico a potersi esibire al leggendario Apollo Theater in Harlem, New York. L'atmosfera in sala è fredda una volta che il pubblico si trova davanti quei ragazzetti bianchi vestiti in t-shirt bianca. Holly ha un colpo di genio, cambia al volo la scaletta e parte con un pezzo di Bo Diddley, stella nascente del rock and roll nero. Anche il pubblico nero adesso apprezza la musica del ragazzino di Lubbock. Holly si è trasferito a New York e nel centro della scena musicale. Qui, negli uffici della sua etichetta, incontra una ragazza. Fa la receptionist. Si chiama Maria Elena Santiago. È amore a prima vista. Si sposeranno 2 mesi dopo, nell'agosto del 1958. Eccoci di nuovo a quel febbraio 1959. Nel bus viaggia tutta la band di Buddy, che nel frattempo ha lasciato i Crickets. Vivere a New York ha aperto la mente a Buddy, che non vuole più il manager dei vecchi tempi. Questo lo porta a rompere con la band. I nuovi compagni di avventura sono Tommy Allsup alla chitarra, il batterista Carl Bunch e il bassista Waylon Jennings. Buddy non avrebbe mai accettato un tour così massacrante nel freddo dell'inverno del nord, ma ha bisogno di soldi per produrre le sue nuove canzoni. Il cambio di manager gli ha procurato un sacco di noie economiche. Ci sono i contratti discografici firmati, come ricorda un suo amico di sempre e grande musicista, Phil Everly, degli Everly Brothers. Una serie di circostanze finanziarie, una serie di problemi, lo portarono a quel tour. Questo è il mio sospetto. Vedevo Buddy andare avanti e indietro dall'ufficio del suo avvocato. Credo volesse risolvere i problemi di denaro che le questioni contrattuali gli avevano causato. Se avesse avuto i soldi, o se non avesse avuto quei problemi, non avrebbe mai accettato quel tour. Avrebbe aspettato che il suo prossimo successo andasse nella top ten e tutto si sarebbe risolto. Ma le cose nella vita vanno diversamente da come ti aspetti. Adesso Buddy ha lasciato Maria a New York. Lei non può seguirli perché aspetta un bambino. Buddy, a bordo di quel bus, non ne può già più. 12 giorni, 12 concerti. Metterebbe a dura prova chiunque. Con la band di Holly sono scritturate per il tour altre stelle più o meno grandi del firmamento rock. Dion and the Belmonts, una band vocale. J.P. Richardson, un disc jockey di 28 anni meglio conosciuto come The Big Bopper. E un ragazzino californiano di 17 anni che stava spopolando alla radio con un singolo cantato in inglese, anche se l'inglese non è la sua lingua nativa. Il titolo della canzone è Donna. Quel giovanotto non ancora maggiorenne sta sorprendendo tutti con la sua fenomenale carica ed energia che mette nella sua musica. Ha iniziato la sua carriera da soli 4 mesi ed è già al numero uno delle classifiche degli Stati Uniti. Il suo nome è Richie Valens. Richie Valens. La macchina del tempo di Destini Incrociati ci ha portato a Clear Lake, Minnesota. All'interno della Surf Ballroom si esibisce il rocker Buddy Holly con una band di musicisti di valore, Waylon Jennings, Tommy Alsop e Carl Bunch. Insieme a loro dei supporter di tutto rispetto, tra i quali spicca un giovanissimo 17enne con la chitarra. Gli anni 50 sono così, fanno crescere in fretta. Holly ha solo 22 anni, ma nel gruppo è considerato il veterano. Quel ragazzino di 17 anni viene dalla calda California e porta un'energia nuova. Il suo destino si incrocia con un idolo dei suoi sogni, Buddy Holly. Non riesce a credere di essere sul palco con il suo mito, sullo stesso palco, con la stessa musica. Il suo nome è Richie Valens. Cosa ci fanno Buddy Holly e Richie Valens insieme quel 2 febbraio, nel cuore dell'America del Nord-Ovest? Per capirlo, dobbiamo immaginare la musica come una grande centrifuga, dove la contaminazione arricchisce, crea nuovo valore, nuove energie. Così come Holly veniva scambiato per musicista nero se ascoltato la radio, così Richie viene scambiato per anglosassone, benché le sue tradizioni siano tutte latine. La lingua principale del cantante americano è lo spagnolo. Quello che sta avvenendo in quel tour è l'incontro di diverse tradizioni. Il country, il rock and roll, il blues, la musica tradizionale messicana, i mariachi. Questa fusione è la scoperta di nuove strade musicali. L'incontro tra Valens e Holly scrive una pagina di storia. Anche per Richie l'infanzia non è stata per niente facile. Lui, un ispanico cresciuto a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Il suo vero nome è Richard Steven Valenzuela. Genitori separati, sballottato di qua e di là, difficile rimediare di che vivere. L'unica certezza? La musica. Comincia subito a imparare i rudimentali accordi delle canzoni della tradizione messicana. La prima chitarra gli viene regalata perché rotta, aveva solo 2 corde. Richie ci tiene così tanto che piano piano aggiunge le corde mancanti e impara velocemente le canzoni che gli insegnano gli zii. Ma non solo, si nutre di artisti neri come Bo Diddley, Little Richard e bianchi, tra i quali c'è Elvis, naturalmente, e Buddy Holly, un suo idolo. Tutti i giorni, in pausa pranzo, tiene banco con la sua chitarra. È un piccolo prodigio. Don't know much about history. Don't know much biology. Il giovane Richie ha anche una band, i Silhouette, l'unica rock and roll band di Pacoima. In una delle loro esibizioni, Bob Keane, presidente della Keane Records, li ascolta e rimane subito colpito. Keane è diventato famoso per aver lanciato Sam Cooke, un artista nero che ha inaugurato un filone che mescola rock a bebop e ha appena fondato una nuova etichetta, la Delphi Records, e ha bisogno di nuovi artisti da lanciare. Richie al provino improvvisa un brano strumentale al quale aggiunge delle parole assolutamente casuali. Il provino viene registrato al volo, come abitudine per quel tempo, e diventa senza ulteriori ritocchi il primo singolo di Richie. Difficile a credersi, ma è già nata una stella. Con Keane, Richard Valenzuela decide anche di cambiare nome. Richard diventa Richie, Valenzuela viene diminuito in Valence, certamente più accattivante. Uscito il primo singolo e rotto il ghiaccio in una serie di esibizioni dal vivo, Valence rientra in sala di registrazione, dove realizza un nuovo singolo. Si intitola Donna, un lento dedicato alla sua fidanzatina del liceo, Donna Ludwig. Donna è nel lato A di un 45 giri, è il brano di punta, e infatti si piazzerà in pochissimo tempo al numero uno delle classifiche, vicino a Elvis, Holly, Richard, vicino ai grandi che ha sempre ammirato. Richie Valens viene quindi lanciato nel mondo musicale in un lampo. Non ha ancora terminato gli studi, ma la macchina discografica si è già messa in moto. C'è un urgente bisogno di nuovi interpreti. Lo show business consuma in fretta. E l'interesse verso altre culture è straordinariamente vivace per un'America che tradizionalmente guarda più dentro se stessa che all'esterno. In America c'è fame di tutto, c'è voglia di esprimersi e di esplorare nuove direzioni. Nel 1957 Fellini vince l'Oscar come miglior film straniero, premio istituito dall'Academy Award proprio in quell'anno con La Strada. E in televisione debutta In the Twilight Zone, un inno a ciò che è ignoto e al mistero, che in Italia ricordiamo ancora oggi col titolo Ai confini della realtà. There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Richie Valens, sul palco della Surf Ballroom nel Winter Dance Tour, suona come sa fare, con grande energia. Ma anche lui in quel tour è stanco, anche se è giovanissimo, anche se si sente in paradiso. In più quel freddo che entra nelle ossa, temperature impossibili che gelano la mano sugli accordi della chitarra. È solo a metà del tour, sono in viaggio da 12 giorni. Con Holly e il resto della band è diventato intimo. Difficile, diversamente, visto che si vive quotidianamente gomito a gomito, si dorme nel bus, sui sedili freddi e duri, si compone musica nelle pause, si mangia insieme. È il 31 gennaio. Il vecchio pullman, con il riscaldamento rotto, si ferma definitivamente. I ragazzi sono nel mezzo di una tormenta vicino ad Appleton, nel Wisconsin. Decidono di bruciare dei giornali per scaldarsi dentro il bus, tanto è andato, dicono. Ma l'influenza colpisce tutta la banda. La serata ad Appleton viene cancellata. Si passa alla prossima, Green Bay, ma bisogna arrivarci. In soccorso arriva uno scuolabus, anche quello sgangherato. Ma almeno il motore funziona. Non è certo la soluzione ideale, scomodo come pochi, coi sedili freddi e duri. Come si può pensare di andare avanti in questo modo? Carl Bunch ha un principio di congelamento alle dita. Gli altri hanno l'influenza, non è vita. Buddy Holly ne ha abbastanza. Qui bisogna escogitare qualcosa. Valens intona qualche accordo di chitarra. In quel clima ostile, lontano da casa, è comunque felice. È la forza della passione e della gioia della musica che anima questo straordinario giovane verso una carriera che è iniziata da così pochi mesi e che lo sta portando in tour per gli Stati Uniti. Il suo esordio ha portato al successo due canzoni, Come On Let's Go e Donna. Il lato B del 45 giri non merita un'aspettativa particolare. È cantato in messicano ed è derivato da una canzone della tradizione Huapango. L'Huapango è una canzone formata da versi apparentemente senza senso, il cui significato, ammesso che ve ne sia uno, è noto solo all'autore. Per Ricci non ha importanza il significato, ma la possibilità di mettere la forza del rock and roll dentro la musica della sua tradizione. È un esperimento nuovo. Nessun ispanico ci ha mai provato prima. La lingua principale è l'inglese e il pubblico non ama troppi cambiamenti, soprattutto da parte di uno sconosciuto ragazzino ispano-americano. Quella canzone non potrà mai avere successo, pensa Ritchie Valens, in quel gennaio del 59. E poi con un titolo come questo, La Bamba, no, neanche per scherzo. Destini incrociati. Per amore della musica si può sfidare un inverno ostile e gelido? Per amore della musica si possono fare 11 concerti in 11 giorni? La risposta è una, sì. Soprattutto se si hanno 17 o 22 anni. Soprattutto se dentro brucia la passione per il rock and roll e tutto quello che rappresenta. Un lievito capace di dare vita a un universo musicale ancora tutto da scrivere. I destini di Buddy Holly, rocker texano, e Ritchie Valens, musicista ispano-californiano. Il talento li ha resi unici. Il caso li vuole uniti per sempre. L'arrivo dello scuolabus a Clear Lake è salutato dalla popolazione dei giovani che non aspettavano altro che un po' di musica dal vivo da parte dei loro beniamini. I ragazzi sono stremati, hanno freddo, l'influenza, i vestiti di scena hanno bisogno di una lavata. Non c'è neanche il tempo per riposarsi in motel. Sono arrivati tardi e bisogna montare il palco. Buddy Holly pensa alla moglie che sta aspettando il suo primo bambino. Deve tener duro. Ma in fondo si può fare qualcosa per staccare da quella prospettiva fatta di autobus gelidi e serate. Il freddo è tale che Buddy si impone di non entrare più in quello scuolabus. Al termine del concerto noleggerà un aereo per andare sul posto della data successiva, a Moorhead, Minnesota. Ha deciso, anche se il costo è proibitivo. L'aeroporto più vicino a Clear Lake è quello di Mason City, Iowa. Hubert Weir è titolare della Weir Flying Service, una ditta che noleggia velivoli, organizza charter e corsi di volo. In dotazione, un aereo considerato la Rolls-Royce dei velivoli da diporto, il Beechcraft Bonanza. Dentro interni confortevoli, fuori una silhouette che lo rende versatile e maneggevole. Weir risponde a una telefonata. È Carol Anderson, il gestore del Surf Ballroom. Gli dice tutto eccitato che una delle rockstar più acclamate del momento vuole noleggiare un suo aereo quella notte per sé e la sua band, Tommy Allsup, Waylon Jennings. Carl Bunch, il batterista, soffre di un principio di congelamento e resterà in ospedale. Buddy deve andare a Moorhead. Dwyer ha sia l'aereo che il pilota. Si chiama Roger Patterson, ha 21 anni. Per quanto abile, ha un'esperienza limitata dalla giovane età. The Big Bopper, un altro dei performer, ha un'influenza colossale. Un'altra notte sull'autobus e può dire addio al tour. Si mette allora a marcare stretto Waylon Jennings, che capisce le condizioni dell'amico e gli lascia il suo posto. Ritchie Valens vorrebbe partire anche lui in aereo, ma non c'è posto. Non si sogna di chiedere a Buddy, l'aereo lo ha preso lui. Waylon ha appena ceduto il suo posto a The Big Bopper. Non gli resta che chiedere il favore a Tommy Allsup, il chitarrista di Buddy. Lo prega in tutti i modi. Buddy voleva volare perché era esausto dei 12 giorni passati in giro. Aveva tutti gli abiti da pulire, aveva così freddo. E così ha noleggiato quell'aereo. Waylon ha lasciato il suo posto a Big Bopper. Quando sono arrivato, Ritchie mi era addosso. Voleva volare. Mi ha sfidato. Voleva lanciare la monetina e far decidere al caso. Aveva mezzo dollaro e lo ha lanciato. Lui non aveva mai volato in un piccolo aereo nella sua vita. La cosa suona alquanto ironica adesso. Ritchie continuava a dirmi, fammi andare. Io rispondevo no. Ma quando ha lanciato la monetina, ho deciso di giocarmela. E così è partito lui. Valens sceglie testa e pronuncia la fatidica frase «Heads up». come il nome che Tommy Alsop darà al ristorante che aprirà successivamente. Quella monetina, quello sfidare la sorte per giocare la propria partita col destino, è un aspetto del carattere dei nostri protagonisti che non hanno dubbi. C'è sempre un motivo per tentare la sorte. Quella notte fa freddo, c'è anche una tormenta. Il giovane pilota Roger Patterson non ha esperienza di volo strumentale e in quel momento, a causa del cattivo tempo, non si vede niente. L'aereo si schianta in un campo di mais. Tutti i suoi occupanti muoiono sull'impatto. È il 3 febbraio 1959, il giorno in cui la musica è morta, portandosi via due dei talenti più straordinari che la musica ricordi. Buddy Holly e Ritchie Valens, insieme al pilota e a The Big Bopper. Nel cuore degli americani, ma anche degli amanti della musica in tutto il mondo, l'annuncio è scioccante. Waylon Jennings, graziato dalla richiesta di The Big Bopper, diventerà una leggenda del country. Il tour andrà intanto avanti. Si aggiungerà il performer Bobby V, che diventerà una pop star degli anni 60. Qualche anno più tardi, Don McLean dedicherà quel giorno una canzone monumento intitolata American Pie. Persino Madonna l'ha ripresa recentemente, facendone un suo hit. Ritchie Valens, il più giovane, ha introdotto la lingua spagnola nel pop, facendola percepire quale vero e proprio genere. L'influsso della cultura latina nella musica sarà inarrestabile e porterà al successo tante altre star come Carlos Santana, Selena, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Jennifer Lopez, persino Bob Dylan, che quando Valens morì non aveva ancora inciso una canzone. E Buddy Holly? Il giovanissimo musicista texano, andandosene, lascia un'eredità ancora più consistente. Figlio della rivoluzione del rock and roll, segna il passaggio da Elvis al Britpop degli anni 60, influenzando con i suoi hit i più grandi della musica americana, europea, come i Beatles, i Rolling Stones, Elton John, i Rem, Elvis Costello. Ha influenzato tutti. Tutti quelli che suonano adesso sono influenzati da lui. Il suo rapporto è nell'aria. Buddy è presente dappertutto. È passato attraverso tutti i grandi, i Beatles, e noi Rolling Stones. Tutto quello che lui ha fatto lo puoi sentire tutti i giorni alla radio. Quanto abbia influenzato ciascuno, e questa è un'altra questione. Comunque è straordinario per un ragazzo come lui, 22 anni. È la voce di Keith Richards, che insieme a Mick Jagger ha cantato per primo uno degli hit più popolari di Buddy Holly, Not Fade Away. Quel 3 febbraio 1959 è stato chiamato il giorno in cui la musica è morta, The Day Music Died. Il paradosso vuole che sia stato il giorno in cui la musica è rinata, grazie alla leggenda di questi musicisti che ha ispirato i 50 anni di musica a venire. Un amore che non cessa di stupire. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.